La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, giornata politica che vive inevitabilmente su quanto successo ieri. Il videomessaggio di Berlusconi, il primo stop alla permanenza del Cavaliere al Senato, tutti elementi che consegnano una maggioranza di governo spaccata, lacerata, ma non però sul punto di rompersi. E quanto emergerebbe dai tanti commenti arrivati tra ieri sera e questa mattina, 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Prima di ascoltare i protagonisti della politica vi faccio però ascoltare un file audio che di fatto è divenuto il tormentone della giornata. Ascoltiamo. E che c'ho scritto Giocondor? Gigante, pensaci tu. Ci penso io. E abbiamo ascoltato questo passaggio. Per chi come me ha vissuto l'infanzia negli anni 70 non potrà non ricordare Joe Condor e Carosello. A questo personaggio ha fatto però riferimento oggi il Presidente del Consiglio Enrico Letta, spiegando che il suo governo non si farà schiacciare dalle polemiche politiche. Sentiamo allora Enrico Letta. Come vedete noi stiamo lavorando in modo molto concreto, attento, lavoriamo per gli italiani. E non ho nessuna intenzione, non abbiamo nessuna intenzione che si creino cortocircuiti su questi temi. Vedo che c'è da un po' di tempo a questa parte la volontà di usare il governo come una specie di punching ball, tutti se ne danno di santa ragione, per cui lavoriamo, continuiamo a lavorare. Dopodiché l'unica immagine che mi è venuta in mente in queste ore è stata di quando ero bambino e guardavo, come penso molti dei presenti qui, ogni sera Carosello, e c'era in particolare una pubblicità di Carosello che è molto efficace, molto carina, che è rimasta, diciamo, nella memoria di tutti gli italiani, in cui c'era quello che diceva: non c'ho scritto Giocondor in testa. Ecco, lo voglio dire a tutti, io non c'ho scritto Giocondor in testa, l'ho imparato fin da bambino e al momento opportuno lo dimostrerò, nel senso che giocheremo all'attacco. Queste dunque le parole del Premier Letta: giocheremo all'attacco. E questo il commento del Premier proprio sulla delicatissima giornata politica. Ieri dunque il videomessaggio di Berlusconi, che tra l'altro a minuti qui vicino a Montecitorio inaugurerà la nuova sede di Forza Italia. E poi sempre ieri il primo passo della giunta sulla strada della decadenza del Cavaliere, voto che non ha visto però la presenza del Popolo della Libertà, ma anche della Lega e del Gruppo per l'Autonomia e la Libertà. Sentiamo allora il perché dell'assenza del PDL nelle parole della senatrice Casellati. Noi abbiamo lasciato per protesta, noi abbiamo lasciato perché abbiamo capito che non c'era più alcuna speranza, nel senso che fino all'ultimo abbiamo ritenuto che di fronte a tanti dubbi che sono stati posti sull'interpretazione di questa legge, forse ci sarebbe potuto essere da parte del Partito Democratico un rigurgito di responsabilità, che non c'è stato. Che la Giunta non è che doveva decidere se la legge Severino era costituzionale o meno, ma quantomeno, ed era una cosa minimale, poteva porsi dei dubbi, così come avevano detto tanti costituzionalisti e anche tanti esponenti del Partito Democratico. Faccio un esempio per tutti: Violante, oppure un costituzionalista come Onida, che certamente non può essere accusato di simpatie nei nostri confronti. E così la Casellati del Popolo della Libertà. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Allora leggiamo un messaggio di Marco che scrive: gli italiani si devono rendere conto che il paese è sotto ostaggio di un dittatore mafioso di nome Berlusconi. Questo governo non si farà schiacciare dalle polemiche, ma bensì dall'Europa, scrive un altro ascoltatore che non si firma. Ma la giornata di ieri segna uno spartiacque nella tenuta del governo. Questa la posizione del Partito Democratico, in particolare della Presidente Rosi Bindi. Ascoltiamo. Ha iniziato la campagna elettorale contro di noi e ha iniziato la campagna elettorale attaccando la Costituzione e la magistratura, rileggendo la storia a modo suo di questi 20 anni e presentando un programma che non è il programma dell'attuale governo, al quale peraltro non ha fatto riferimento. Io penso che di fatto ieri Berlusconi abbia staccato la spina al governo Letta. vediamo quanto dura la luce elettrica precedente, l'energia che è stata accumulata in questi mesi, per vedere la durata, ma mi pare che questa sia la situazione. Nelle ricostruzioni giornalistiche di oggi lei sembra, nell'ambito del PD, la persona che forse vede più vicino, come poi diceva poc'anzi, proprio le elezioni. Perché questa cautela invece da parte dei suoi colleghi dello stesso partito? Forse perché c'è la vigilia comunque di un'assemblea nazionale molto importante. Con la sua cautela e con la sua prudenza il segretario Epifani non ha detto cose diverse dalle mie, commentando il discorso di Silvio Berlusconi. E io non vedo imminenti le elezioni, anche perché io non voglio andare a votare con questa legge elettorale. Dico soltanto che questo governo, così com'è, così come l'abbiamo, come dire, l'abbiamo fatto camminare in questi mesi, sicuramente ieri ha aperto un presupposto fondamentale. Se uno dei partiti, il leader di uno dei partiti principali che sostiene il governo, inizia la campagna elettorale, è molto difficile pensare che, al di là delle interpretazioni di chi non vuole ammettere la realtà, che sono anche molti giornali oggi, è difficile pensare che questo governo si basi ancora sul presupposto con il quale è nato ed ha iniziato a camminare. Queste le parole di Rosi Bindi del PD, molto spiritoso Enrico da Verona, che sta al gioco di Joe Condor e dice: urca, ma davvero Letta non è Joe Condor? Ma questa è davvero una grande delusione, allora come facciamo? Ed ancora Lino da Pavia scrive: va bene in attacco, ma la squadra è da cambiare. Si riferisce Lino alle parole di Letta, che dice il governo è comunque all'attacco. La giunta per le elezioni, la giunta che dovrà decidere la decadenza, tornerà a riunirsi il 4 ottobre. Sentiamo allora il presidente della giunta, Dario Stefano. Ho condiviso con il presidente Grasso l'indicazione del 4 ottobre come data in cui realizzare l'udienza pubblica con orario d'inizio che verrà fissato nelle prossime ore. Abbiamo individuato, e in questo senso ho condiviso l'indicazione del presidente Grasso, una data che non coincidesse con gli impegni d'aula e che quindi per ovvi motivi di funzionalità ci consentisse di realizzare la seduta pubblica con la massima efficacia ed efficienza. Ed il 4 è oggettivamente la prima data realisticamente utile ed idonea, trattandosi di una sala che dovrà essere appositamente allestita per lo svolgimento di una seduta pubblica con la partecipazione delle parti in contraddittorio. Altro capitolo di polemica, quello sull'omofobia, anche qui scambio di accuse tra PDL e PD, sentiamo attaccati l'uno dietro l'altro Brunetta e Speranza. I nostri sforzi per raggiungere l'accordo sono stati vanificati dall'atteggiamento più recente del Partito Democratico per arrivare ad una legge di bandiera, una legge identitaria, ideologica, diretta non a tutti i cittadini ma ai propri elettori. Noi diciamo una cosa, e diciamo che se una persona fa violenza ad un'altra, e se questo è di colore o ha un'altra cultura o un'altra religione, c'è l'aggravante oggi in Italia, è previsto dalla legge Mancino. Come possiamo giustificare, facendo una legge sull'omofobia, che questo stesso reato non c'è? Per chiudere due messaggi, Antonio da Como: nel frattempo le aziende chiudono o vanno all'estero. Ed ancora un altro messaggio riferito a Berlusconi: basta con questi ricatti, cada pure il governo, ma lui deve sparire. La politica alla prova termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.